Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che da 12 anni racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, la trasformazione degli stili di vita e i progetti per un'economia di giustizia, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 736 e parleremo di leggi ammazza orsi e della difficile vita dei selvatici, di asini messi in salvo, di gufi reali. La colonna sonora della puntata è di Gianluca Masala. La ricetta della settimana, come al solito, di Gabriele Palloni. Come previsto, alla fine la giunta provinciale trentina ha messo nero su bianco l'ennesimo atto della sua lunga guerra agli orsi. Il consiglio provinciale ha infatti approvato con 16 voti favorevoli, 11 astensioni, comprese le forze di centrosinistra, e due soli voti contrari, del consigliere De Verdi e di quello del gruppo locale Onda, una legge che prevede la possibilità di uccidere fino a 8 orsi, cosiddetti problematici, ogni anno, per 2 anni. Quello in corso è il prossimo. Mentre per il 2026 il tetto di animali da uccidere sarà fissato dopo nuove valutazioni. Più che di un atto tecnico, come è stato presentato, finalizzato a salvaguardare la sicurezza delle persone e il mantenimento di una situazione stabile nella popolazione orsina, si tratta in realtà di una misura politico-ideologica da inquadrare all'interno di una campagna che va in scena ormai da molti anni. Per la destra trentina la guerra agli orsi, la manomissione del progetto Life Ursus, che ha riportato i plantigrati nelle montagne italiane, è una manifestazione di suprematismo specista, l'espressione di una volontà di potenza, che forse tradisce una generale, reale impotenza, a scapito degli animali. L'assessore provinciale Roberto Failoni, promotore del disegno di legge, a voto avvenuto, ha espresso poi un commento rivelatore. Credo che questa legge, ha detto, sia l'ennesima opportunità per avvicinare le valli alla città. Una considerazione paradossale. Si attacca la vita selvatica, a quanto pare, per ricondurla forzatamente dentro i canoni cittadini. Sembra insomma un modo per negare, rifiutare, combattere ciò che è irriducibilmente libero e diverso. La vita selvatica, appunto. Un proposito, dicevamo, paradossale, in un'area caratterizzata da boschi, montagne e animali liberi. Ciò che in apparenza è il vero tesoro del Trentino. Un tesoro che però si vuole controllare, normalizzare, in qualche modo rinnegare. La discussione della legge è stata accompagnata dalle proteste dei movimenti animalisti. Ci sono stati anche alcuni momenti di tensione con le forze dell'ordine. E poi uno striscione di protesta è arrivato fin dentro l'aula del Consiglio, grazie a un'attivista entrata esibendo il tesserino dell'Ordine dei giornalisti. La campagna Stop Casteller, presa di mira nelle settimane scorse con denunce e fogli di via, propone una visione diametralmente opposta rispetto al suprematismo specista della giunta trentina. Questa norma, si legge in una nota della campagna che si autodefinisce assemblea antispecista, è bracconaggio legalizzato. Ribellarsi perciò è un diritto e un dovere dei cittadini. Con questa legge scellerata, continua il comunicato della campagna, Fugatti chiude il cerchio di una politica inaugurata 20 anni fa, quando organizzava banchetti a base di carne d'orso. È una legge che tenta di apparire neutra, ma che di scientifico non ha nulla, e che insieme al bracconaggio porterà a una seconda estinzione degli orsi in Trentino. Anche il Ministero, durante la conferenza informativa, ha dichiarato che la sopravvivenza della specie è ancora a rischio a causa della scarsa variabilità genetica. Stop Casteller prosegue parlando di una legge fondata su menzogne che deve essere smascherata. Questa legge non garantirà la sicurezza delle persone. Non esiste alcuna evidenza scientifica che l'uccisione degli orsi riduca i conflitti e aumenti la sicurezza delle comunità. Quello che è certo è che condannerà irrimediabilmente la popolazione ursina all'estinzione. E questo Fugatti lo sa benissimo. Gli attivisti dicono che non lasceranno che decisioni sugli orsi siano prese da chi gli orsi non li ha mai voluti. Il bosco è anche degli orsi e la loro vita conta. La convivenza pacifica, dice Stop Casteller, è possibile. Contro la legge si prepara anche una battaglia legale. La LAB, Lega Antivivisezione, chiede che Bruxelles apra una procedura di infrazione contro la provincia di Trento e contro il governo nazionale, succube di Fugatti. OIPA annuncia una battaglia legale in tutte le sedi possibili, mentre EMPA domanda alla Premier Giorgia Meloni di impugnare la legge trentina davanti alla Corte Costituzionale. WWF Italia, infine, definisce la scelta della giunta Fugatti una decisione demagogica e una facile scorciatoia. Una vicenda finita bene, ma comunque rivelatrice della reale condizione animale nella società presente, è quella dei 57 asini finiti all'asta al Tribunale di Modena. Gli animali appartenevano a un imprenditore locale, la cui azienda è fallita, con conseguente sequestro dei beni di proprietà. Fra questi appunto i 57 asini, una sorta di allevamento nato quasi per caso, a partire da alcuni asini presi per fare compagnia a cavalli da corsa. Da un punto di vista animalista e antispecista, naturalmente niente di accettabile. Ma con l'asta la sorte di 57 incolpevoli asini poteva essere il macello. Perciò sono partiti appelli e una mobilitazione online con l'invito a partecipare a una raccolta fondi per poter concorrere all'aggiudicazione degli animali, che vivono attualmente su un terreno a San Possidonio, in provincia di Modena. Da un punto di vista legale, gli animali erano nient'altro che una proprietà, come degli oggetti, e compito del tribunale semplicemente strappare il prezzo più alto, in modo da coprire il buco creato dal fallimento. Ma si possono trattare degli esseri viventi, degli animali perfettamente coscienti, come degli oggetti? Evidentemente sì. Nessuna clausola pesava sugli animali, anzi sulle cose messe all'asta. Nessun vincolo a garantire loro almeno la vita, per esempio. Alla fine, dicevamo, è andato comunque bene, perché l'associazione Horse Angels, di rilancio in rilancio, a partire dalla base d'asta di 14.250 euro, è riuscita ad acquistare gli asini per 33.000 euro, che diventeranno circa 40.000, aggiungendo oneri vari. La cifra sarà attinta dal fondo costituito grazie alle offerte volontarie di 1.300 persone, in tutto 56.000 euro. Ora per gli asini si prospetta il proseguimento senza troppi cambiamenti della propria esistenza, salvo il trasferimento programmato in un'area più vasta e quindi più adeguata. Sarà anche possibile fare delle adozioni a distanza. Resta lo scontro culturale, etico, politico, per la cosificazione degli animali, meri oggetti di un'asta, nell'indifferenza di tutti, per la sorte che sarebbe loro toccata. Probabilmente la macellazione, visto che solo 8 dei 57 asini, per età e altre ragioni, non rientravano nella categoria sanitaria dei macellabili. Si è fatta interprete di questo sconcerto, di questa cosificazione, l'associazione OIP. È inaccettabile, ha detto a commento della conclusione della vicenda, che esseri senzienti finiscano all'asta fra automobili, biciclette, banconi industriali e merci varie. Quella dell'asta di animali è una procedura amministrativa non etica, nella quale gli animali sono considerati meri oggetti. In questo, la legislazione italiana è molto lontana dal recepimento del Trattato di Lisbona del 2007, che tutela gli animali in quanto esseri senzienti. Salvation. Lo scorso 3 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale degli Animali Selvatici, in teoria dedicata a una riflessione sulla necessità di garantire e proteggere il pieno esercizio, appunto, della vita allo stato libero. Ma in realtà giornata dedicata a ragionare attorno all'impossibilità degli animali, quasi ovunque ormai sul pianeta, d'essere pienamente se stessi. Abbiamo visto in apertura di trasmissione quale sia la cura con la quale in Italia si guarda la vita selvatica, più odiata che tutelata, per ragioni soprattutto ideologiche e politiche. La vita selvatica è incontrollabile, incoercibile, sfugge a ogni logica di potere e proprio questo la rende insopportabile al potere, che cerca di limitarla, circoscriverla, eliminarla. Sullo sfondo naturalmente c'è il suprematismo specista tipico delle società umane, soprattutto ma non solo occidentali, per cui la vita selvatica deve essere comunque sottomessa al dominio di Homo sapiens, o meglio delle sue attuali e prevalenti forme organizzative. C'è poi l'aspetto più prettamente ecologico della questione selvatici, anch'esso al centro della giornata mondiale del 3 marzo, ossia il continuo attacco agli habitat naturali portato dal modello di sviluppo capitalistico. Come ha detto il 3 marzo scorso EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, non c'è molto da festeggiare, perché i selvatici, oltre che dei cambiamenti climatici, della deforestazione, della cementificazione, dell'inquinamento, della distruzione degli habitat, sono vittime del commercio illegale, della caccia e del bracconaggio. EMPA ha colto l'occasione della giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 per ricordare che sebbene vi siano dei passi avanti a livello europeo, ad esempio con l'approvazione del Nature Restoration Law, la legge che prevede l'obbligo di ripristinare le qualità ambientali di aree inquinate e il divieto di commercio di specie provenienti dall'ambiente selvatico, il governo italiano sta lavorando controcorrente. Nell'ultimo anno ha stravolto la legge nazionale 157 del 92 sulla protezione della fauna selvatica, elargendo concessioni al mondo venatorio, in violazione, fra l'altro, della direttiva Uccelli, tant'è che abbiamo di recente ricevuto una procedura di infrazione. La maggioranza lavora costantemente a norme che rischiano di favorire il bracconaggio, anche depenalizzando i reati contro la fauna. E non solo, orsi e lupi sono nel mirino di una campagna allarmistica e scientificamente infondata, e le istituzioni, anziché lavorare per la convivenza attraverso l'impiego di efficaci strumenti di prevenzione e con una corretta informazione alle persone, sembrano più interessate a cavalcare l'onda del malumore per racimolare consensi. È la tragedia e la miseria, aggiungiamo noi, della prassi politica contemporanea. Flaco era il nome di un gufo reale che per un anno ha appassionato e incuriosito molte persone nella città di New York. Flaco, appunto un anno fa, dopo 13 anni di detenzione, era riuscito a evadere dalla voliera in cui era rinchiuso, nello zoo di Central Park, grazie alla complicità di un ignoto cittadino che aveva aperto un barco nella rete. Un vandalo, secondo le cronache cittadini, un liberatore, secondo altri, fra cui noi. Vivere in una metropoli però è molto complicato per un gufo reale, tanto più se è rimasto segregato per quasi tutta la vita. Flaco aveva appena un anno quando cominciò la sua reclusione. Si è subito tentato di catturarlo, anche per la sua incolumità, senza però riuscirvi. E così, giorno dopo giorno, il gufo è diventato popolare, seguito e osservato con curiosità e preoccupazione da migliaia di persone. A un certo punto si è scoperto che Flaco riusciva a sfamarsi in autonomia, nonostante la lunga cattività, catturando topi e piccioni. E quindi per un anno è riuscito a vivere, schivando i pericoli di un luogo inospitale, qual è New York. Però nei giorni scorsi, per ragioni ancora poco chiare, si è schiantato contro un palazzo dell'Upper West Side ed è morto. Una storia triste, ma anche questa rivelatrice. Ci dice dell'assurda persistenza di luoghi di sofferenza e sadismo, quali sono gli zoo, e della incapacità delle società umane di creare spazi di vita che tengano conto degli altri animali, perché questo in fondo è il problema di New York e di tutte o quasi tutte le città del pianeta. Sono pensate come se gli animali non umani non esistessero. La presenza di Flaco a New York naturalmente era legata esclusivamente alla pena che gli era stata inflitta, da scontare nello zoo di Central Park, ma molti altri animali potrebbero vivere degnamente in ambienti cittadini, se questi tenessero conto della loro presenza. Le città oltretutto sarebbero più gradevoli e meno nocive, anche per noi umani. Così però non è, almeno per il momento. Intanto registriamo il fatto che Flaco potrebbe avere un monumento alla memoria a Central Park. È la proposta di Mike Hubbard, un musicista di 34 anni, ispirato, come molti suoi concittadini, dalla capacità di sopravvivenza contro ogni ostacolo del maestoso animale. La sua proposta ha già raccolto migliaia di adesioni. La statua sarebbe una riproduzione di Flaco da sistemare sopra un ramo, come se fosse ancora appollaiato lì. Flaco, ha detto Hubbard, motivando la sua proposta, ha sprigionato il senso di meraviglia infantile dal cuore delle persone, facendo sì che i newyorkesi abbiano guardato al cielo anziché chiudersi sullo schermo dello smartphone. Flaco è dunque un simbolo di resilienza e reinvenzione, entrambe qualità che i cittadini di New York, dice Hubbard, sono fieri di possedere. Qualità che forse però, obiettiamo noi, dovrebbero anzitutto dimostrare nel rendere più vivibile, meno alienante, la loro città, ammesso che questo sia ancora possibile. Come ogni settimana, il nostro tosco vegan chef si cimenta nella proposta di una ricetta ispirata dai temi trattati nella puntata. Stavolta tocca proprio a Flaco, il gufo reale che per qualche mese ha reso meno grigia del solito la vita di tanti abitanti della metropoli statunitense. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. In omaggio a Flaco e alla sua resilienza, la ricetta delle donuts newyorkesi. Perché è vero che non tutte le ciambelle riescono col buco, ma nessuna gabbia potrà recludere la voglia di libertà di qualsiasi animale, di qualsiasi specie. Gli ingredienti per 12 vegan donuts sono 50 g di burro vegetale, 120 ml di latte di soia, 2 cucchiai di olio di semi di girasole, 250 g di farina tipo 0, 100 g di zucchero di canna, 10 g di cremor tartaro, un pizzico di sale e olio per friggere. Fate sciogliere il burro vegetale a fuoco basso. Aggiungete il latte di soia e l'olio di semi di girasole mescolando il tutto, quindi togliete dal fuoco e mettete da parte. In una bowl versate la farina e metà dello zucchero, aggiungete il cremor tartaro e il sale e mescolate. Disponete il tutto a fontana e al centro versate il composto di burro, latte di soia e olio. Lavorate fino a formare un impasto denso. Con le mani infarinate formate delle palline piatte e con il pollice praticate un foro al centro di ciascuna ciambella. Scaldate l'olio per friggere, adagiate delicatamente le ciambelle nell'olio utilizzando una spatola. Friggete per circa 3-5 minuti su ciascun lato fino a doratura. Mettete le donuts su della carta per frittura, quindi passatele nel rimanente zucchero. Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Roberta Marino, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.